Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Buon Natale! Aia, ma sei antipatico a Natale però, eh? Mi hai fatto una schicchera. Ma perché devo stare zitto che mi fai il segnale di stare perché zitto? Perché tanto il microfono era spento, quindi il tuo buon Natale non sei... buon Natale, Merry Christmas! Buon Natale! Mi raccomando, facciamo qualcosa per ci le siamo, persone meno fortunate di noi a Natale. Anche regalare... Ma mi fai dire una roba, che ci sovrapponiamo, sembriamo veramente Totò e Peppino? Prego. Ecco, lo sapevo io. È certo, perché cioè, l'hai proprio lanciata praticamente. Ah, io il l'ho lanciata. Peter, tu grazie Peter di questo. Mi parli sotto. Un rimprovero da parte di Sandra. No, di Raimondo. Sandra, sei tu, Ciccio. Sei tu che la notte sgambetti. Noia, che barba, che noia. Ecco, appunto. Allora, buon Natale a tutti. Voglio dire, cerchiamo di essere più buoni, non solamente a Natale, come dico sempre, e cogliamo l'occasione per dare una mano e stare vicino alle persone che hanno più bisogno. Ma io volevo partire con un argomentino, caro mio Vaida. Un argomentino in cui di nuovo i cani ci sono da conforto e sono utili. Esatto, durante un lutto, che può sembrare una cosa brutta, ma in realtà invece, d'altronde, siccome se c'è una certezza in questa vita è quella che dobbiamo passare a un'altra vita. Sì, ma poi lutto significa non soltanto qualcuno che muore, ma anche qualcuno che semplicemente che ci lascia, ci molla e via dicendo. Sì, in questo caso però l'articolo che ho preso io parla in modo specifico proprio di persone che ci lasciano perché muoiono. Bene. E succede anche nei giorni di Natale, per cui stiamo vicino anche a queste persone e vediamo come i cani ci possono essere utili. Allora, i cani donano conforto anche in questioni di lutto. Questo Mark Krause, gestore di un'azienda di pompe funebri di Milwaukee, ha deciso di utilizzare il suo cane Oliver appositamente addestrato proprio per alleviare le sofferenze dei parenti dei defunti. Uh-huh. Perché lui ha scoperto che, lui dice, in un'impresa di pompe funebri le persone solitamente sono molto a disagio, e lui ha scoperto che portando il suo cane, e specifica che non rientra, non aggiunge il costo ovviamente di quello che è tutta l'organizzazione di un funerale, le persone quando lo vedono si illuminano e vogliono salutare e accarezzare l'animale. Dai, e racconta che addirittura un bambino che era al funerale di sua sorella, della sua sorellina che era morta, che non ha parlato per tutta la funzione, quando poi si è avvicinato il cane ha ricominciato a parlare e ha iniziato a parlare col cane. Dai. E a spiegargli come si sentiva perché gli era mancata la sorellina. Vedi, l'accettazione incondizionata dei nostri animali. Tra l'altro sai che la pettera è nata in un modo simile? Ah, sai sì? Che oggi si parla molto di pettera, sì, è stata riconosciuta anche dal ministero Sirchia come medicina alternativa. Certo. No? La pet therapy nasce con uno psicoterapeuta che portava con sé il cane nello studio durante le sedute di psicoterapia, e si accorgeva che quando c'era il cane c'era una maggiore apertura, disponibilità, certo, e accettazione da parte dei pazienti, che facevano dei progressi migliori quando c'era il cane. Ed è nato tutto lì. Infatti, e da qui si sta dilagando questa cosa, perché ovviamente un'altra, anche a New York, un'altra agenzia di pompe funebri ha adottato addirittura 10 cani Golden Retriever addestrati apposta per questo, perché il cane è in grado di riconoscere ad un funerale addirittura le persone che hanno maggior bisogno di conforto. E quindi sta dilagando questa cosa, perché sono i cani, essendo molto sensibili alle emozioni umane, sono in grado, questo me lo insegni tu, di empatizzare con le persone. Eh sì, hanno un livello di empatia a volte molto alto, molto più alto del nostro, che non sappiamo cosa fare, cosa dire in quel momento. I cani ci insegnano che non c'è bisogno di dire nulla. No, quello che fai è quello che è la cosa più importante, come ti poni, il legame, la relazione è quello che conta. Addirittura all'Università di Londra stanno facendo uno studio, hanno condotto uno studio su questa cosa qui, e hanno scoperto che i cani comprendono la tristezza e offrono per istinto conforto e vicinanza, tendono a consolare le persone, non solo i proprietari, quando queste fanno finta di piangere. Ecco, vedi. Quindi impariamo dai cani, e quindi anche per il Natale predisponiamoci come fanno i cani. Sì. Attenzione, non voglio generalizzare del tutto, nel senso che non è che tutti i cani sono adeguati per fare questo genere di lavori, tanto che poi più tardi sentiremo Maurizio Romanoni che ci chiarirà, certo, delle cose sul Malinois, che è una razza particolare. Ecco, se vedete un Malinois in giro, attenzione a non mettergli le mani addosso, così come può succedere per altri cani. Ogni cane è a sé. Ci sono dei cani che sono particolarmente predisposti a svolgere questo tipo di funzione, perché gli viene spontaneo. Esatto. Quindi genitori, educate i bambini che non è che siccome vedono un cane devono andargli addosso, mettere le mani addosso, perché ogni cane ha diritto anche di stare tranquillo. Sarebbe come mettere le mani addosso appena vedi un'altra persona, la tocchi, che è fastidiosissimo. Devi giustamente capire se è il caso o no. Allora, diciamo subito due cose sulla museruola, visto che questi giorni si viaggia. Questo giorno si viaggia. Potreste essere messi nelle condizioni di mettere la museruola al vostro cane. È giusto anche così, ma è giusto che voi vi prepariate. Allora, abbiamo preso un articolo scritto da Marina Balbi, che saluto, ne approfitto, è una collega che ha partecipato proprio alla mia scuola, uno dei miei collaboratori. Ha scritto un bell'articolo sul suo sito paroladicane.it, quindi andatelo a leggere, perché io sarò molto sintetico in questa cosa, in cui ci sono 11 passi per abituare il cane alla museruola. Quindi molto all'inizio, nelle prime fasi, quello che si fa è che la museruola la si usa un po' come una ciotola, cioè all'interno della museruola gli si mette dei bocconcini magari incastrati sulla griglietta, così che il cane infili il muso lì dentro e tragga piacere dall'inserire il muso lì dentro, perché quando tu gli metti la museruola il cane un po' si rattrista se lo obblighi. Deve guadagnare inizialmente questa voglia di infilare il muso lì dentro, che deve trovare del cibo in fondo. Si può usare anche sul fondo del patè, dell'omogenizzato, del formaggio spalmabile, tutte queste cose qua. Poi in una seconda fase la museruola è sempre vuota, però il cane infila il muso e poi noi lo premiamo, così che possa abituarsi a fare questo. Poi, per esempio, la parte del laccio dietro la si può sostituire con un elastico per capelli, in modo che tu gliela infili velocemente, che ci sia questa morbidezza. E la parte davanti può essere tolta, questa parte che blocca il muso, in modo che il cane possa fare dei lavori, andare lì a beccare. Poi bisogna anche capire che tipi di museruola, perché tu una volta mi hai detto che quella griglia è fatta in un modo, quella lì di stoffa che gli tiene intorno, invece, cioè, ci sono, hanno quella diverse di stoffa funzioni, proprio perché ha la parte davanti che lascia libero il muso del cane, deve chiudere di più il muso, in genere più scomoda, mentre la museruola deve essere larga, deve essere qualcosa che lascia respirare il cane. Vi invito ad andare a completare questa vostra conoscenza sulla museruola sul sito paroladicane.it. E noi ci rivediamo fra pochissimo. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Allora, siamo in linea con Olimpia, che io ho conosciuto qualche mese fa perché è una appassionata e sensibile alle esigenze degli animali e dei cani. Non soltanto sotto Natale, ha salvato cani, gatti. Olimpia, ci sei? Pronto? Sì. Olimpia, ci senti? Eccomi, sì sì, ci sono, ci sono. Senti, allora, io con Olimpia ho già parlato un po' di volte, invece Angela è la prima volta che ti sente. Allora, sì, tu, stavo raccontando, sei talmente sensibile che quando passeggi per strada con tua figlia hai già salvato qualche cane e qualche gatto, giusto? Sì, sì, sì. Sei una tosta, temeraria, non ti fa paura nulla. L'ultima cagnolina che hai salvato, l'hai salvata, l'hai tolta a una coppia di tossicodipendenti alcolizzati che la tenevano talmente denutrita che non alzava il sederino, le zampine di dietro, cioè aveva solo 2 o 3 mesi. E ora, esattamente. E ora è felicemente lì con te perché hai deciso di tenere lei oltre 3 gatti e un altro cane? Esatto, sì, ho 2 cani e 3 gatti, sì, esatto. Però, una bella famiglia. In queste giornate di festa ne hai trovata un'altra, hai trovato sì, un caso particolare, giusto? Sì, esatto, sì. Io abito in centro a Roma e diciamo che qui la questione, insomma, peggiora sempre di più perché i mendicanti, soprattutto, insomma, gli zingari, perché poi c'è da fare anche una differenza, ci sono persone che tengono con sé gli animali per fare l'elemosina, ma sono persone che comunque li amano e li trattano bene, quindi in questo mi sento di fare una differenza. Okay. Nel caso specifico degli zingari, questa differenza non mi sento di farla perché comunque sono, da quello che sfruttati, vedi, la maggior parte delle volte purtroppo sfruttano. Sì, e adesso sì, tu stai cercando, vorresti salvare questo cagnolino che è chiuso in una gabbietta, com'è, in che condizioni? Di 4 mesi, che ha una zingara che comunque lo usa per fare l'elemosina via nazionale, e poi a una certa ora lei si sposta per aspettare qualcuno che la viene a riprendere, e nel frattempo questa cagnolina sta chiusa in una gabbietta piccolissima per un bel po' di tempo. Ma aspetta, questa gabbietta è ferma quando lei si sposta oppure la porta con sé? No, questa la porta con sé, la porta sempre con sé, soltanto nel momento in cui lei chiede l'elemosina, ovviamente il cane lo tiene al guinzaglio, sì, e quindi, diciamo, tra virgolette, libero. Poi però lo mette in questa gabbietta, io presumo che quando lo riporta nella baracca, come dice lei, il cane sia spesso chiuso. Io tra l'altro, quando la prima volta che l'ho incontrata, ho chiesto di vedere questo cane fuori dalla gabbietta. Questo cane è palesemente terrorizzato. uh-huh. ha provato anche, diciamo, a scappare quando è uscito, oh, ma Dio. Si è subito bloccato perché evidentemente, insomma, viene... Tu hai anche il sospetto che fosse che sia un cane di razza che è stato magari rubato a qualche privato? Mi è venuto oggi perché guardando bene dovrebbe essere Fox Terrier, quindi insomma, voglio dire, c'è anche l'eventualità che sia stato rubato. Allora Olimpia mi ha chiamato perché oramai ci conosciamo e per chiedermi aiuto, e noi gli abbiamo subito detto: chiama le varie associazioni, le varie organizzazioni, chiama i carabinieri, chiama la polizia, chiama l'OIPA, chiama la LAV, chiama tutti. Tu questo l'avevi già fatto? Io ancora adesso sto chiamando tutti, però puntualmente mi trovo sempre nella stessa situazione quando, diciamo, devo intervenire per un cane o per un gatto, e cioè la difficoltà da parte di associazioni, di OIPA, di carabinieri, di polizia municipale di intervenire diciamo tempestivamente. Quindi le associazioni mi rimandano alla polizia municipale, la polizia municipale se interviene, però se non vede il cane ridotto proprio in condizioni estreme o maltrattato, diciamo seduta stante, io per quanto mi riguarda, insomma, non ha mai fatto granché. E l'OIPA mi dice di fare segnalazioni, e ovviamente loro però hanno una mole di lavoro non indifferente, quindi per smaltire le varie segnalazioni ci mettono giorni, dai 15 giorni in su. Abbiamo bisogno di volontari all'OIPA, no? Perché da questo punto di vista, se qualcuno si sta chiedendo cosa posso fare per gli animali, diventate volontari, così che possiate aiutare. Anche perché se sai, tante persone sono attive sul campo, no, come Olimpia, certo. Se si sentono abbandonate dalla legge, dai carabinieri, e quando li chiami questi non vengono, no, poi allora... l'altra cosa che bisogna fare, appena vedete una zingara con un cane in gabbia in via nazionale o qualsiasi altra situazione, telefonate, bombardate di telefonate i vigili eccetera. Però Olimpia, noi mossi da, appunto, ci siamo chiesti che cosa che potessimo fare per te, abbiamo voluto contattare Diana Cerini, che è stata nostra ospite precedentemente a Radio 24, che è un avvocato esperto in diritti degli animali, ha scritto Diritto Animali per Giappichelli, che è una casa editrice, ed è al telefono con noi. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, ciao, avvocato. Buongiorno Olimpia. Hai sentito, sei riuscita ad ascoltare la storia di Olimpia? Ho sentito, sì sì, ho sentito tutto. Sicuramente è una situazione purtroppo frequente, quella dell'accattonaggio con animali che spesso sono maltrattati, e è anche frequente che ci siano difficoltà poi da parte di chi vuole intervenire a trovare un supporto. Allora, mentre ascoltavo, anch'io pensavo, ovviamente una prima via è quella di chiedere un aiuto alle associazioni, le quali però per vari motivi, anche proprio per forze e risorse ridotte, non sempre riescono a intervenire tempestivamente, e comunque ricordiamoci che non sono dei sostituti degli organi pubblici. Il cittadino esatto ha il diritto di rivolgersi alle forze dell'ordine, alle autorità, e di chiedere gli interventi. Allora io credo che anche, diciamo così, per provare a risolvere il problema di immediatezza che a volte si pone, si può operare a mio avviso in due modi. Allora, è ovvio che se c'è una situazione di emergenza va fatta subito presente e si chiede l'intervento urgente delle autorità. Se questi non vengono uguali perché dicono... Esatto. Se non arrivano però e la situazione si protrae, allora io direi che prima di tutto che cosa può fare il singolo, la persona come vorrebbe fare Olimpia? Prima di tutto crearsi delle condizioni che siano utili per provare questa situazione dopo, quindi per esempio andare con un amico, con un'altra persona a verificare, fare delle fotografie, anche fare dei video, filmati, esatto, fare dei video, fare dei filmati, cioè tutto quello che nel caso poi la posizione venga portata in un procedimento può supportare proprio il procedimento stesso. Quindi prima di tutto questo, poi però al di là di telefonare, laddove non intervengano, il cittadino può La prima fase sarebbe quindi quella di un esposto anche oralmente con un intervento telefonico. Il cittadino può sicuramente fare un atto che è una denuncia e quindi recarsi dalle autorità, dai carabinieri e chiedere di mettere tutto per iscritto. Perché? Perché è vero che loro al telefono possono, magari hanno altre priorità, però esiste questo diritto del cittadino e una volta che l'atto è presentato c'è poi anche la possibilità ex post di verificare se qualcosa è stato fatto e è chiaro, laddove non vogliano ricevere l'atto o comunque poi non intervengano ci sono Cosa? Allora io ti posso dire una cosa, io capisco tutto questo, ma io di fronte a un animale che vedo denutrito e ho bisogno di agire, l'atto non vengono, la foto, poi torni lì, questi non ci sono più. Fra l'altro stiamo parlando di persone che sono anche pericolose. Ecco, non è che... no, infatti è questo il problema, che l'istinto di tutti sarebbe quello di intervenire, però intervenire vuol dire a volte mettersi in pericolo. Quello che si può fare è semmai cercare di bloccare, magari parlando le persone, coinvolgere altri e nel frattempo insistere sull'intervento delle autorità che vengano in loco e verifichino. Posto che probabilmente non ne ho il diritto da un punto di vista legale, quali sono le conseguenze legali di una persona come me che può andare lì e dire a questa zingara adesso hai rotto le scatole, mi prendo questo cucciolo e me ne vado e ti pianto lì? No, oltre questo può essere veramente pericoloso intanto per chi lo fa, ma poi al di là di quello, laddove paradossalmente, laddove poi non ci sia la possibilità di provare questa circostanza, lo so che è paradossale e mi spiace molto sottolinearlo, però la persona potrebbe a sua volta incontrare dei problemi legali. Aspetta, la zingara dovrebbe, però la zingara dovrebbe andare a sua volta dai carabinieri e denunciare. La vedo dura che una zingara va. No, infatti voglio dire, questo in linea teorica, anche io una preoccupazione che vedo molto remota, però il problema più immediato è quella del rischio. Mettersi in difficoltà. C'è anche da dire che, per esempio, se Olimpia ha il dubbio che l'animale, essendo di razza, comunque possa in qualche modo non derivare da circuiti legali, diciamo, ecco, magari un intervento anche in questo caso potrebbe verificare se l'animale poi è cippato, perché se era di un proprietario che l'ha acquistato, comunque l'ha avuto, quasi sicuramente l'avrà fatto cippare e quindi questo potrebbe confermare non solo l'eventuale maltrattamento ma anche il furto, la sottrazione. Tu a questo punto, Olimpia, come sei messa? No, però infatti, allora, il problema è questo, che comunque sempre per provare se sia stato rubato attraverso un controllo del chip o meno, il cane comunque bisognerebbe prenderlo, portarlo da un veterinario e quindi a quel punto vedere se è un chip. Quindi comunque la cosa è complicata. Io sono in questo momento che praticamente io parlando con questa zingara ho verificato che lei sarebbe disposta a lasciarmelo ovviamente sotto compenso. Quindi ovviamente la dice sempre lunga, no? Certo. Sì, il problema è che poi questi capiscono il giochino, pigliano un sacco di cani e diventa un incubo, non va bene. No, io intanto direi, se c'è un esponente delle forze dell'ordine che ci sta ascoltando. Esatto, è quello che stavo pensando, a meno che non coinvolga, quasi un'operazione un po' poliziesca, ma insomma non coinvolga direttamente. Ma ci sono tanti cinofili tra i carabinieri, i vigili urbani, eccetera. Se ci state ascoltando in questo momento, per favore contattateci in redazione, vi mettiamo in contatto con Olimpia, perché io mi rendo conto che magari quando chiamano una persona magari che non è così sensibile all'argomento, però ci può essere qualcuno che dice non esiste questa roba, intervengo io stesso e magari fate un'operazione nella quale si verifica il microchip e queste cose qua e magari si può sottrarre la cosa. Certo, posso aggiungere però una cosa? Sì. È vero che è molto brutto e molto triste telefonare e non trovare riscontro, esatto. Però le denunce facciamole, perché anche le forze dell'ordine quando vedono accumularsi una serie di interventi decisi dei cittadini, alla fine magari non in questo caso specifico, ma alla fine un intervento c'è ed è soprattutto verificabile ex post, quindi non è comunque tempo perso, al di là del telefonare, quello di recarsi e presentare una vera e propria denuncia sulla base della quale si dà tecnicamente la notizia del reato e poi certamente sono le autorità che in base alle loro priorità interverranno, però la denuncia c'è e non solo. Nel caso in cui poi ci si attivi magari per delle indagini presso il centro dove si ritrovano queste persone, è anche possibile che sulla base della denuncia precedente ci sia un rafforzamento e la possibilità di fare un sequestro. Bene, grazie Diana mille. Cerini, grazie Olimpia. Olimpia, ci sentiamo poi esempio. Noi per notizie finali. Buon Natale. Grazie. Deborah, ti piacciono ancora le favole? Mi piacciono sì, soprattutto adesso che è quasi Natale, ne stiamo scrivendo una insieme. Io, te, i nostri ascoltatori e Andrea Vitali. Eh sì, sino alla vigilia di Natale daremo vita a una grande favola collettiva. Ogni giorno, all'interno di Cuore e Denari, io darò un incipit nuovo e i nostri ascoltatori potranno completarlo scrivendo un pezzo di favola sul sito di Radio 24. Il migliore verrà poi letto in trasmissione e riceverà il nostro libro Secondo Canto di Natale. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Radio 24 apre una finestra sui problemi quotidiani delle persone disabili. Sono cittadini italiani come tutti gli altri, ma spesso costretti a vivere in un mondo fatto solo per normodotati. Ci diciamo anche noi disabili, perché tutti abbiamo diritto alla socialità, a muoverci nelle nostre città, ad avere spazi accessibili, a non essere considerati cittadini di serie B. Segnalaci ogni disattenzione, sopruso, barriera architettonica o mentale che un disabile sopporta tutti i giorni. Scrivi a anche noi disabili @radio24.it oppure chiama il numero verde 800 00 2400 e noi ti daremo voce dai nostri microfoni. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E rieccoci, buongiorno, con mamma questa mia raffreddata. Sì, non va via, non va via. Rosita Celentano. Sto cercando di nelle pause di liberarmi, ma non va via, non va via. Sempre con metodi naturali. E vabbè, ma sai che tanto i nostri cani ci aiutano in questo. Oggi, cara Rosita, ci occupiamo di una delle razze che sta spopolando, no? Dove? Sta spopolando perché affascina molto. Questa razza è uno dei pastori belga, perché devi sapere che i pastori belga sono ben quattro, no? Sai che uno hai sempre in mente quello nero. Io che è il Grönendal. Mentre adesso ci occupiamo del Malinois, che ha Malinois. Come si scrive? Malinois. È francese? È belga. Ah, belga, scusa, quindi scemo. Quindi vedi il raffreddore prende quelle prende il cervello, quei pochi neuroni che ho ancora saldi. E allora io mi sono detto, apprezzo molto il lavoro di un cinofilo italiano, no? sul Malinois, sulla conoscenza del Malinois e che cos'è il carattere del Malinois, perché è un cane molto particolare. Quindi abbiamo con noi, ho deciso di invitare Maurizio Romanoni, che è in linea, che è un esperto della razza, un appassionato di questa razza qui, ed è un istruttore cinofilo praticante della disciplina dell'obedience, in cui con i metodi gentili si riesce a far fare ai cani cose straordinarie. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a voi. Ciao Maurizio. Ciao. Ti farò un sacco di domande, perché per me è una novità il Malinois. Anzi, mi è venuto in mente che forse una volta avevamo incontrato una signora francese seduta a un bar. Bravissima. Con un cucciolo, fantastico. Eravamo a Bassano del Grappa. E Angelo mi disse un Malinois. Ho detto, beh, è meraviglioso. Sì, i francesi li hanno proprio diffusi, perché è vero che è una razza belga, però la Francia è quella che forse fa più cani al mondo, direi. È la vera patria, in fondo è la Francia. È la Francia. Sì, direi di sì. Allora, io ho letto un tuo post su Facebook in cui tu eri molto preoccupato che il Malinois facesse un po' la stessa fine degli Husky tempo fa, dei Dalmata con la carica di 101. Cioè, di queste razze così diffuse diventate poi di moda, che uno si innamora della razza senza capire se effettivamente il suo stile di vita e la sua preparazione è adeguata, e se lo porta a casa. In questo caso, nel caso del Malinois, visto che è un po' una Ferrari, il rischio è ancora più grosso. Sì, allora, io inizio in modo irrituale, perché prima di iniziare di che fossi messo in contatto con voi per questa registrazione, sono stato dal barbiere, e neanche a farlo apposta, e giuro che è stata davvero così. Il barbiere mi dice: senta un po', a proposito, è venuta una signora che mi ha detto, lo sa che ho preso un cane come Diesel, sa, ecco, quella cagna, ecco, sì, che è morta a Parigi, l'ho preso, e a quanto pare il mio barbiere, che così un po' di cani si intende, molto di più comunque della signora, ha detto: ma attenzione, che è un cane che non è semplicissimo da gestire. Ah, no, e la signora pare che abbia detto: ma a me sembra un lupo. Ecco, questo è quanto. Questo è quanto. No, io della cioè, verità... possiamo racchiudere. No? Esatto. È triste, ma è così. Ma quali sono le differenze sostanziali? Per esempio, visto che anch'io, nella mia ignoranza, quando ho visto le fotografie di Diesel, ho pensato: è strano che è quel pastore tedesco. Ecco, allora, molto sinteticamente, intanto, per fortuna, non essendo mai stato di moda, sempre stato un cane applicato eccetera eccetera, non ha avuto le degenerazioni legate alla moda, quindi legate alla salute. È un cane molto più leggero del pastore tedesco, un cane che una femmina sono 20-25 kg, un maschio una trentina di chili, a fronte dei 40-45 kg. Un cane molto corto, molto sano, ha un rapporto peso-potenza spaventoso, nel senso che è un cane leggero, con un'elasticità, una capacità di alzarsi e volare dentro le finestre, fuori dalle macchine, e poi un morso, una mandibola straordinaria, collegate a un grande temperamento e una grande tempra. E queste sono le doti. Ecco. Per cui uno facilmente poi si innamora di questa razza, anche perché poi circola la notizia che è un cane in dotazione alla polizia francese, che fa delle cose spettacolari. Servizi speciali, truppe d'assalto. Quindi si guarda qualche filmato su YouTube e dice: che bello, lo voglio pure io. E questo poi diventerebbe il dramma della razza, da un lato potrebbe diventarlo. Per magari allevatori senza scrupoli che si mettono lì a fabbricare cuccioli perché il cane sì, che va di poi, moda. Poi non fa come è successo al pastore tedesco, poveraccio, che gli hanno rovinato con la displasia dell'anca. Esattamente questo. E poi da un lato può essere la rovina di quel singolo cane adottato dalla persona sbagliata, che poi non sa come gestirlo, va a finire che non sa più che pesce pigliare, o che morde un bambino, o che fa, o che viene abbandonato in canile. A parte in canile, magari anche in giardino. Ma sì, ma perché il Malinois è un cane davvero, io prima ho tessuto le doti, perché io sono un inguaribile innamorato di questa razza, ho avuto fin dal 74 ho iniziato ad avere Malinois, ho sempre avuto queste, quando in Italia venivano ancora presi per degli strani lupoidi, ancora adesso non sono conosciuti, e quindi io ho tessuto le doti, ma ha delle caratteristiche che per noi appassionati sono doti, che non lo so per il privato, per il papà che compra il cane per il bambino, per la signora con tacco 12. Perfetto. Che lo porta in giardinetti, se possono essere 12. Mettiamo in guardia. Cioè, se io vorrei che rimanesse dopo questa intervista con te l'idea: ok, forse è molto meglio che il Malinois lo lasci dove sta. È un cane che innanzitutto, se non è gestito bene, è abbastanza litigioso con i cani, soprattutto se maschio eccetera eccetera. È un cane che vuole essere sempre presente, vuole essere al tuo fianco, non può essere ghettizzato in un giardino, in un box eccetera. Come io uso fare questo paragone, cioè il cane cioè un cane che viene dalle Fiandre, dalle zone fredde del Belgio, di conseguenza è chiaro che potrebbe stare tranquillamente in giardino e reggere i nostri climi, reggere quelli del Belgio, ma sarebbe veramente sprecato, e oltre a soffrire lui perché non può sviluppare questa ipersocialità che si ritrova, è proprio l'uomo che non riesce a vivere in pieno questo cane, che è un cane che vuole starti a fianco, starebbe in un monolocale appiccicato ai tuoi piedi, piuttosto che avere un giardino enorme e lasciato lì con la classica bella cuccia. Sono assolutamente d'accordo. Intanto Rosetta sta guardando delle belle foto di Tervuren pensando che sia il Malinois. È uguale ma un po' peloso. Allora, i pastori belga sono quattro: sono il Tervuren, il Grönendal, il Malinois e il Lachinois, che ha un pelo un po' più arruffato. Sono tutti splendidi cani. Però è vero che bisognerebbe, vedi, in Svizzera io ho scoperto, non lo sapevo, che quando uno adotta un cane, sia che prende un cane di razza, sia che lo va a prendere al canile, ogni privato deve avere fare una sorta di patentino. Per capire se è idoneo ad avere un cane in quando casa. Quando devi adottare un bambino che devi fare un corso di prenotazione. Esatto, la trovo una cosa veramente molto civile, sarebbe veramente da adottare, perché così eviti un sacco di rogne dopo. Capisci quanto sei idoneo ad avere, a prenderti cura di un essere vivente e che tipo di caratteristiche ha in base al cane che vai a prendere? Sì, direi che il patentino è veramente, sarebbe veramente d'obbligo, perché si prende il cane con veramente troppa superficialità. Guarda, adesso poi col Natale è una tragedia. Io sento persone, anche amici, che con tutto il bene che gli voglio mi dicono: sai, le mie figlie vogliono il cane, andiamo a prendere il cane. Poi prendono dei cani, poverini, li parcheggiano lì, diventano giocattoli. Sono cose veramente... Senti Maurizio, ci aiuti a... Allora, c'è certa parte di cinofilia, sento ultimamente, che pensa che far lavorare il cane, fargli delle richieste, no? Fargli fare semplicemente anche l'obedience, anche se tu glielo chiedi in modo gentile, sia una forma di obbligo di maltrattamento. Certo. Te che cosa ne pensi di questa roba? Penso che sia un... Mi verrebbero in mente delle espressioni poco gentili, ma diciamo che è un non senso, è veramente un non senso, perché il non far lavorare il cane, il non fare delle richieste che non devono essere necessariamente proiettate verso l'agonismo, semplicemente per, in funzione della relazione, per creare una buona relazione con il cane bisogna avanzare delle richieste, come col bambino, la stessa cosa, il bambino che a cui vengono chieste determinate cose, lo si manda a scuola, certo, a fare i compiti, eccetera, e poi viene premiato per questo, viene riconosciuto il suo valore, aumenta l'autostima, lo stesso è per il cane. Certo. Quindi non è solo un problema di gestione, no? Perché uno dice, beh, riesco a gestirlo meglio perché se mi passa il tir io riesco a bloccare il cane, quindi non va sotto il tir. No, è proprio un problema anche affettivo, cioè si ripercuote proprio nella sfera affettiva tra uomo e cane. Un buon conduttore che sa chiedere e soprattutto sa pagare, perché è chiaro che a fronte della richiesta ci vuole un forte rinforzo, quelli che noi tecnicamente chiamiamo i rinforzi, che sono i giochi col salamotto, il rinforzo col cibo, una serie di cose. Questo equilibrio tra richiesta e rinforzo crea la motivazione, che la motivazione è quella che spinge ognuno di noi a far cose, quindi il cane va lavorato, ma va lavorato nel senso buon buono, senso. Non nel senso dello sfruttamento. A me viene in mente anche una cosa, che le doti caratteriali di un cane possono essere come si dice, influenzate, no, dalla genetica, e il pastore belga Malinois è un cane che ha necessità di questa forte motivazione a lavorare con, alla cooperazione, alla collaborazione. Quindi se tu non lo fai lavorare così, lo privi di qualcosa che lo rende felice. L'altra volta quando ci siamo sentiti per telefono io ti ho detto: a me il Malinois piace tantissimo, non ne ho ancora adottato uno perché le mie condizioni di vita in questo momento non mi permetterebbero di stargli dietro come vorrei. E tu mi hai detto un'altra cosa: in quel modo non lo vivresti neanche a pieno. Esatto. E ti avevo fatto anche l'esempio: sarebbe come bere del buon champagne in un bicchiere di plastica. Esatto. Tremendo. Il paragone dell'ottimo champagne in un bicchiere di plastica. Sì, perché poi, tra l'altro, il lavoro che va fatto col marino, ma è il tipo di rinforzo, anche questo bisogna tenere conto. Non è il rinforzino, il bocconcino che gli si dà, bravo, che hai alzato la zampetta. Il Malinois vuole lavorare con la bocca, vuole mordere forte, quindi bisogna sapere come far mordere. Per mordere non intendo la mordacità sull'uomo, il mordere gioco, la predatorietà, quindi il giocare con il cane, il saper far mordere il salamotto senza diventare avversari, ma poi facendo una sorta di tiro alla fune. Il cane chiede proprio questo tipo di lavoro, per cui non è un lavoro che possa fare l'uomo della strada, senza svilire l'uomo della strada, voglio dire quello che prende il cane così per diletto. Ma poi il lavoro nobilita l'uomo, nobilita tutti, dipende dai tempi con cui uno lavora. È certo che se uno mette il cane e gli fa fare il lavoro per 12 ore tutti i giorni, ma anche per una persona sarebbe massacrante. È come mandarlo in miniera, no? Oppure abbandonarlo lì a dormire 12 ore al giorno, è sbagliato pure quello. Quindi gli eccessi sono sbagliati e i metodi sono fondamentali, quindi se sono con metodi gentili, perché no? È sbagliato, e qui bisognerebbe, se mi è concesso, proprio spendere brevissimamente due parole. Come è sbagliato, secondo me, concepire i cani solo come cani forti, voglio dire, è una sorta di maledizione che pende sulla testa dei Malinois, che pende sulla testa dei Rottweiler, dei Pitbull, cani ottimi, ottimi cani, che però vengono purtroppo troppo spesso lavorati con metodi cruenti, strisce la notizia, eccetera, eccetera, collari elettrici, collari a strozzo, collari con le punte. E questa, ahimè, non è soltanto, non sono le... Ascolta Maurizio, io ti interrompo perché abbiamo finito gli 11 minuti, ma se rimani con noi, ti prego, io ho da farti altra domanda, da chiudere un po' questo discorso. Diamo un attimo un break e poi ritorniamo assieme. Certo. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ancora più presenza, ancora più informazione, ancora più storie, ancora più ascolto. Per noi è questa la vera festa. Tanti auguri da Radio 24, perché la passione si sente anche a Natale. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Il mondo dalla prospettiva del Malinois in questo momento. Esatto, il mondo dalla prospettiva del Malinois. Io intanto sono qui davanti al computer che mi sto deliziando con foto di cuccioli su cui di questa bella razza. Io. Allora, al telefono con noi abbiamo Maurizio Romanoni, ancora, che ci stava dando dei suggerimenti, stava dando dei consigli e ci stava raccontando appunto di questa nobile razza. Avevamo lasciato il discorso su che cosa? Ecco, faccio fatica. Si era lasciato il discorso sul fronte dei cani cosiddetti troppo forti. Sì, esatto. Molto forte, tanto il cane è forte. Allora, se io recupero un cagnetto dal canile, magari traumatizzato, perché abbandonato, perché picchiato, perché deprivato sensorialmente, allora io so di dover utilizzare tutte le cautele che devo avere, mi avvicino, insomma c'è tutta una tecnica per avvicinare questi cani. Se mi devo avvicinare a un Malinois, non io, ma purtroppo troppa gente, al Malinois, al Pit, eccetera, eccetera, dico ma tanto il cane è forte e regge. E non è vero, perché soprattutto il Malinois è un cane di una sensibilità incredibile, per cui se preso nel suo giusto verso, e questa è una cosa da tener conto, di cui tener conto, se preso nel suo giusto verso è un cane che va nel fuoco per te, ma se non hai il tuo consenso, se per qualche ragione ti vede sfiduciata, è un cane che si rompe. Io faccio paragone sempre con il diamante, che è estremamente duro ed è estremamente fragile. Certo. Quindi se non ha l'uomo, se non ha il partner di fianco che gli dice sei un bravo cane, ce la fai, che lo incoraggia. Spesso si sciolgono, sì, perché sono cani molto sensibili, hanno una nevralità molto alta, e questo va ad aggiungersi al discorso che abbiamo fatto prima. E come tutti gli esseri animali e umani, quando c'è troppa sensibilità, bravissima, bisogna avere doppia attenzione, perché vale anche per... Guarda, tu stai dicendo una cosa che io riscontro da quando conosco Angelo, che si parla di cani in questa fattispecie, però tutto vale anche nelle relazioni fra esseri umani. Assolutamente. Perché stiamo parlando di una razza di cane che è particolarmente sensibile, ma quando tu incontri delle persone o hai dei figli, hai più di un figlio, vedi che uno è particolarmente sensibile, se non gli stai dietro in un modo con più attenzione, sarà anche quello che ti darà più problemi, perché la sensibilità provoca poi delle insicurezze. Guarda, delle fragilità. Nell'ambiente del lavoro il dramma vero è che quando una persona sbaglia a fare qualcosa o ha un cane che secondo lui non va, cioè non ti vince le gare, non ti fa queste cose, diventa sfiduciato, e quel cane lì ovviamente, soprattutto quando è sensibile come un Malinois, l'avverte questa cosa, te la legge in faccia, perché fiducia nei confronti del cane non gli arriva perché tu gli dai da mangiare o perché gli lanci una pallina, ma avviene in mille gesti quotidiani, nel fatto di farlo stare con te, nel fatto di cooperare assieme, te lo legge in faccia, te lo legge nei gesti. Quando questo non c'è, il pericolo appunto è di compromettere ancora di più la sensazione, invece di avere una persona che si assume la responsabilità, no? Sia della vita di quel cane, sia delle proprie magari mancanze, perché se un cane non va bene nel lavoro non è detto che sia il cane, ma è il contrario, è praticamente sempre vero il contrario. Assolutamente. Io adesso, Rosita, hai detto, hai fatto il paragone con l'umano, io credo che sia veramente una cosa saggia. Io dico sempre, quando nei miei stage, che si fa un gran parlare di pettera, della pettera, perché quell'attività che si svolge negli ospedali eccetera eccetera, ma la grande pettera è proprio la cinofilia, la buona cinofilia in generale, perché ti consente di metterti sempre in discussione, di vedere dove sbagli, di non essere convinto di essere sempre nel giusto, anzi di continuare, c'è l'umiltà, insomma, è stata di essere umile, di continuare a guardare il cane, perché un sacco di volte il cane che ci sa leggere benissimo, mentre noi siamo proprio del delle persone incapaci rispetto a loro. Loro sono dei professori universitari, certo, a leggere, certo, la nostra postura, e noi siamo dei bambini dell'asilo a leggere loro. Quindi dovremmo proprio continuare a guardare, a guardare, a guardare, per cercare di vedere, perché è chiaro che se non guardi, non vedi. Poi, sì, a furia di guardare, piano piano riesci a vedere. E allora lì ti si apre un mondo. Sì, ma, sì, ma è un mondo difficile. Guarda, a me mi si è aperto, sì, un mondo e mi si apre ogni giorno, ed è quello che cerchiamo di fare anche con questa trasmissione radio, di far capire di più, a imparare a vedere i gesti, le espressioni, i movimenti del corpo, che vale fra uomo e animale, ma anche fra uomo e uomo, quindi figurati. Però un po' secondo me si sta andando verso questa direzione, tanti segnali positivi. Sì, penso di sì. Senti, allora, ricapitolando, quindi Malinois, lasciatelo lì dov'è, vi rivolgetevi alle persone giuste e non soltanto, sì, esatto, a, cioè soprattutto non andate nel negozietto, no? E fatevi un esame di coscienza per sapere che tipo di vita conducete, cosa siete disposti a dare, perché noi chiediamo sempre al cane, ma cosa siamo disposti a dare al cane in termini di tempo, in termini di qualità, esatto, di tempo. Lo devo adottare per lui, cioè cosa che vita gli devo dare, non cosa posso, esatto, prendere. Esatto, esatto. Allora, esatto, vogliamo dare il suggerimento di un allevamento di cui tutti fidi, così che incappino, abbiamo la certezza che incappino nell'allevamento giusto? Ho due amici che secondo me sono molto bravi e si muovono sui due fronti. Uno sul fronte del cane sportivo, uh-huh, e anche proprio specificamente da lavoro, anche per attività di morso, che è Anna Maria Cini, che, sì, vive a Lucca, e mi pare che l'allevamento si chiami Velvet Gun, basta andare su internet. Quindi Anna Maria Cini, titolare dell'allevamento di Velvet Gun. E per quanto riguarda la bellezza, Cecilia Marchesini, titolare dell'allevamento dei Baci di Dama. Sono persone assolutamente serie a cui potersi rivolgere. Uno deve sapere che cosa vuole esattamente, la conformità allo standard. Ti puoi dare degli ottimi cani, puoi fare anche dell'agility, anche un po' di obedience, e comunque tanto tempo libero, passeggiato in montagna, anche guardie, anche un po' di difesa. Fantastico. Quelli della Cini sono specificamente per il lavoro, quelli che vengono chiamati working dog, cioè, proprio cani, il cane da lavoro, l'agonismo. Bene, proprio cinofilo, sì. Maurizio, grazie. Romanoni, grazie di essere stato con grazie noi e dei tuoi preziosi suggerimenti. Grazie mille, consigli. Alla grazie prossima. Grazie a voi di avermi dato l'occasione di spendere qualche parola sul Malinois. Ma grazie. Bene, grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao, buona giornata. Ciao. Ed eccoci, allora siamo. Cosa siamo disposti a dare? Questa è una domanda che tutte le mattine uno si sveglia e dovrebbe farsela, sta domanda. Sì, cosa siamo disposti a dare? Ma a proposito di dare, noi dobbiamo tutelare i nostri cani sotto Capodanno, perché c'è questo, sì, dramma dei botti. Noi faremo tutte le domeniche questo tormentone dei botti di Capodanno. Ecco, cosa succede a proposito dei botti? Allora, abbiamo in sottofondo, no, questa cosa qui. Questo dobbiamo capire che per molti animali è un dramma, non soltanto per i cani nelle nostre case, ma per gli animali vaganti, per gli uccelli, certo, gli animali che sono liberi. No? I ma botti purtroppo stessi sono un problema. Sappiamo anche che ci sono diversi comuni in Italia che hanno vietato i botti. Pare che Torino, tra l'altro, sia una delle città più ligia a perseguire gli amanti dei fuochi d'artificio, cioè non devi farlo. Ogni comune poi adotta anche degli orari in cui puoi sparare i botti, degli orari in cui non puoi farlo, però ricordiamo che insomma possono esserci dei cani seriamente preoccupati da questo. Come si può fare per aiutare un cane che ha paura dei botti, per esempio? Leggi un po', quali sono i consigli? Allora, questo è un articolo, sapete che prendiamo spesso articoli in giro, questo è la prima volta forse che prendiamo un articolo tratto dal mio blog Animalness angelovaira.it, quindi ve lo ritrovate lì, però molto velocemente, se vuoi aiutarmi. Se il mio cane ha paura dei botti, come posso aiutarlo? Uno, tienilo in casa, perché io mi ricordo per esempio di una signora che aveva tenuto il cane in giardino con il collare, il cane aveva fatto in modo di scavalcare una recinzione interna per arrivare vicino alla porta di casa, purtroppo si è impiccato, perché quando il cane è terrorizzato se la rischia di brutto. Quindi primo suggerimento: se il cane ha paura dei botti, non fate come fanno alcune persone, non dovete tenerlo in giardino, dove stare assolutamente in casa. Comunque non deve essere lasciato da solo. Secondo punto: chiudi le finestre, abbassa le tapparelle, accendi la TV, alza il volume della musica. Esatto, cioè devi attutire i botti e coprire il loro suono con TV accesa, invita degli amici a casa, la radio, eccetera, così che si sentano meno. Terzo punto: svolgi i suoi esercizi preferiti per distrarlo, suppongo, perché così almeno lo fai giocare, lo premi, tieni, lo devi occupare, esattamente. Quarto punto. Ah, ecco, esercizi preferiti significa che tu precedentemente puoi anche creare maggiore motivazione a questa, ne parleremo un'altra volta. Quarto punto, mostrati sicuro e tranquillo. Esatto, cioè quando il cane è impaurito puoi accarezzarlo assolutamente, l'importante è che non vai in ansia tu, perché certo, altrimenti il cane si preoccupa ancora di più. Se tu vedi il cane e dici oddio adesso così, amplifichi quella paura, mentre se tu rimani centrato e sicuro allora puoi, come succede a me quando vado in aereo con Morfin che ha paura di volare, io ho paura di volare, vedo lui che va in ansia e quindi pensa che concentrato, vedi? Di ansia. Quinto punto, microchip e medaglietta. Eh sì, perché se il cane per caso dovesse per qualche motivo scappare, mi raccomando, tutti i cani devono essere microchippati e avere una medaglietta in modo che possano essere ritrovati, perché altrimenti... Sesto punto, diffondi cultura. Eh beh, diffondi cultura è qualcosa che tu puoi fare per tutti questi cani, cioè prendi queste notizie e diffondile, parlane con i tuoi amici, con quelli che hanno cani, e fai buona cultura invece di dire... insomma cavolate, perché in rete purtroppo se ne trovano tante. Comunque io credo che a questo mondo si possa fare tutto, basta farlo con la testa, non essere egoisti. Se si prende un cane ci si deve preoccupare quando si va in vacanza, non abbandonarlo per strada ad agosto perché è scomodo. Quando no, è Capodanno, abbiamo... se uno vuol fare i botti con gli amici, ti devi premunire, capire se il tuo cane c'ha paura, se non ha paura, fare in modo, insomma, nella vita non è che si... No, ricordiamo, perché nella notte di San Silvestro muoiono, secondo delle stime dell'ANSA, una notizia dell'ANSA, 5.000 animali nella sola notte di San Silvestro. Oh, quindi, madonna. Allora, significa fare cultura, significa anche diffondi queste notizie, aiuta i comuni a proibire i botti, perché non sono un'usanza. Infatti, si possono proibire. Con questo buon Natale! Volevo dire Merry Christmas, buon Natale, mettiamoci d'accordo, no? Merry Christmas! Merry Christmas! Jingle bells, jingle bells, jingle... Mi raccomando, non siate buoni solamente il giorno di Natale, perché veramente, insomma, così spicciolo, bisognerebbe far sì di sentirsi... Gentilezza d'animo che ci insegnano i nostri animali. Ogni giorno deve essere Natale. Vi voglio bene, un abbraccio a tutti quanti. Scriveteci, chiedimi se sono felice, @radio24.it, e ciao e buon Natale da Angelo Vaira e Rosita Celentano.